attenzione, Luca, mi ascolti? Luca, stai scendendo qua. Ora, oh, aspetta, forse è Clarissa, ragazzi. Ti ha toccato. Calibrazione. Guarda, vedi, adesso, Luca, anche io ti sento così. No, si sta fissando sino all'altro giorno, tranquillamente. No, qua è tutto a posto. Luca, e se ne è andato da solo, no, non è successo nulla, non so cosa sia successo. Minchia, c'ho splatter da Gianni. Devo passare di moto? Allora, adesso ho abbassato di una tacca, va meglio? Va meglio? Te lo sai, 4.30 e 4.3. Vabbè, comunque è la mia radio questa, eh? Ciao, io lo sento, se lo sento io Gianni e splatter, figurati, se non intendi due, sia per Daniele in macchina, ma stai scherzando? Sì, sono qua. E il coso, il sicuramente il Royce. Cosa vuoi ti dica, Marco? Non so. È micidiale. Boh, non so. Io infatti sento tutto quello che dice nella 10, non c'è bisogno di spostarmi nel 12. Va bene, non è niente. Claudio. Gianni, mi stavi chiamando, sto parlando con Marco. Gianni, ma io sono sempre qua. Io c'ho tutto acceso, VHF, canale 10, canale 23, canale 20. Oh, Claudio. Sì, già, ti avevo risposto, non mi dai tempo. Sono andato in bagno, ti stavo avvisando che stavo andando in bagno un attimino e non potevo risponderti, c'avevo il coso in mano. Vai da Radio Siria già, mi sposto nel canale 11, non 12, nel canale 11, non si sente manco il soffio, mi chiama Radio Siria. Vabbè, ma lui se, solo l'aspetto è bellissimo. Molto bella come radio. A me piace tanto, mi riempie l'occhio. Infatti riempi l'occhio allora, però devi stare attento quando ti riempi l'occhio che ci puoi riempire anche un'altra cosa. Disturba parecchio. Disturba. E l'armonica è sempre un danno che può risultare, capito? Un casino. Può risultare sempre un casino, perché quando c'è così questo spostamento devi stare attento, devi far seguire, fare le prove, perché può darsi anche che risulti una frequenza radioamatoriale, come già risultato una volta, e poi sono casini, e non è che io, anche il DAC a me mi riempie l'occhio, però io non l'ho mai provato, può darsi pure faccia la stessa cosa, per quello è sempre spento, preferisco usare radioserie come hai, ne hai tante di radioserie, quelle sono vintage da collezione, intanto accendi, dai un fischio e le rimetti a posto, cosa ti devo dire? Stai attento, è tanto lo spostamento Gianni, è tanto. Ma bisogna vedere se è fuori frequenza o se è il microfono che dà questo problema qua, perché l'ho messo a nove per fargli sentire la radio quanto esce potente a Luca, e ce l'avevo a 3, l'ho messo a 9, magari proprio in quel momento lì ha disturbato, capito? È troppo forte quel microfono, infatti tutti mi dicono abbassalo che è troppo forte. Claudio. Già, da che mondo è mondo, non sono i microfoni che mandano le spurie, sono le radio che sono spostate, hanno uno spostamento di frequenza, capito? E quindi chiaramente quando tu parli parte la punta dell'armonica dello spostamento e ti sento per dire a 27 705 805. Non c'entra niente il microfono Gianni, assolutamente. Dimmi Luca. No, stavo provando se stavo scendendo anche sul 10 questo qua parte dal 4 arriva al 15, basta, non è altri canali. Allora, io sul monitor qua sembra che stia uscendo, poi come non lo so. 15 canali. Stai uscendo benissimo, stai arrivando a Santiago 9, radio Super 5. Vabbè, Super City che sto usando come microfono, che aveva lo stesso attacco, che pagava, cioè adattato, dai, con l'adattatore che ho messo. Va benissimo allora, ok, perfetto. No, non esce molto bene, mi sono spostato con la sintonia continua. Ho scavalcato anche gli 11 metri, sono andato in 10 e no, non ti sento. perfettamente centrato. Ma qui su pirati buono. No, quello di Gianni è bellissimo. Caspita, mi ha mandato la fotografia, è impeccabile. Peccato, magari si può regolare, mi. Sì, in effetti già, basta che non disturbi dei 10 metri soprattutto, no tra. I problemi sono quelli, capito? E dovete sapere che dagli 11 ai 10 metri basta una fesseria, uno spostamento di frequenza troppo alta, dove l'armonica cade. Sui 28 sono dolori, capito? È una rottura di balle, quindi bisogna stare attenti a quello, bisogna fare bene le prove, prendere, inserire la radio, fare, provare con la strumentazione, vedere dove va a finire l'armonica, perché il problema è quello. Non è un problema di microfono, è un problema di armonica, perché io sto usando un HF, Gianni. No, tu in un HF mi ti sento lo spostamento di due canali, è un grande problema, perché gli HF lo sai che hanno tutti i filtri AM, FM, SSB, poi sono HF, cioè hanno un altro sistema. Io Roberto, se si mette l'altra volta, si è messo sul 12, risponde a Eugenio, io sul 10 mica lo sento, capito? Non devo sentire io con l'HF, assolutamente. Se ti sento a te che sei già a distanza con 6 watt e 5 watt, è un'armonica che inizia a preoccupare. E vabbè, va sul lato. Luca, allora cosa fai? Te lo tieni questo? No, è già messo in vendita. Questo è il vendita, anche a pagare vecchio pare funziona tutto, sembra funzionare tutto. KK. Infatti vi stavo dicendo a Gianni, queste sono cose per collezionisti, non è che cioè il valore glielo dà un collezionista, perché non si bottrata, cioè, tutti i giorni. Però basta che non manda spurie. Tutto, ho già spiegato su WhatsApp. Io come collezionista ne ho regalato 16, ok? 16 base con 16 microfoni, con 16 microfoni, di cui 6 erano normali e 10 erano da tavolo, capito? Regalati, non le voglio più sentire. So solo un attimo, non mi interessa fare normalmente, se imprimere a casa di radio vintage che poi le tieni di spente, ne accendi una ogni tanto, non me ne affutti più nulla. Assolutamente, ho ripreso l'attività, quella che devo fare, ho 4 HF, anzi 5 HF, il Galaxy e il DAC, basta, e poi tutta la parte VEU, che quella è un'altra cosa, non mi interessa più. Avevo la casa piena di baracchini, spesi una barca di soldi, per niente. Capito? Ma l'occhio me lo dà la mia operatività, quindi gli HF, le V, le U, il bellissimo Galaxy e il DAC. Questo, c'ho i due amplificatori, c'ho tutto quello che mi serve, però non me ne viene più in casa di Mondezza. Marco, io ne ho Mondezza, io ci scappare chi sei. Mamma mia, tu mi ha dato di doppio, grazie. Ma chi ti sta dicendo niente, Gianni? Ti ho detto forse che tu c'hai Mondezza. Per me è Mondezza, nel senso che io la definisco roba vecchia che è lì messa da una parte con degli investimenti che io ho fatto qualche anno fa, che ho speso solo in radio vintage, ho speso quasi 3.000 euro per fare che cosa? Per vederle lì, cazzo, c'ho questa radio, c'ho quella, non me ne futi più nulla, capito? Non mi interessa, nessuno ti ha detto che c'è Mondezza, cioè ti ho sempre detto c'è bellissima radio, bellissimi baracchini e va bene così, ognuno la pensa, io ho cambiato idea, quindi non investo più niente in baracchini, non me ne futi più nulla, sto prendendo altre cose, sto facendo altre cose, mi sto ovviamente inserendo nella banda amatoriale, nelle cose che mi interessano, baracchini, cosa me ne futi. Ma c'è una buona idea, prima hai detto che non ti interessava più della banda amatoriale, alla torre. Vabbè, ognuno fa quello che vuole, però io invece di regalarli i baracchini li avrei venduti e mi avrei rifatto i soldi che avevo speso, e tu li hai voluti regalare e ciccia. Io ho fatto un'opera buona, chi a me mi ha sempre dato, capito? Io queste cose non le guardo, i soldi vanno e vengono, non me ne futti nulla, e quindi li ho regalati col cuore, so dove sono, posso andare a vederli, non ho problemi. Capito? Assolutamente, e so soprattutto che sono mani buone, quindi, no, ti ripeto, non mi mi interessa, non è che non ti ho detto, io non avevo, io ti ho detto che la banda amatoriale la usavo poco, quindi toglievo le antenne, toglievo tutto eccetera. Adesso stanno entrando un sacco di radioamatori nuovi e quindi mi fa piacere conoscerli, sentirli, parlarci, e quindi mi sto riattivando le cose che mi interessano, capito? Tutto lì, ma potrei anche riprendere in mano la situazione vintage, ma non me ne fotti nulla, no? Non ho soldi da buttare, capito? Ce li ho ma non li butto come facevo prima. Investo in altre cose, no? Non me ne fotti nulla. Poi ripeto, ognuno è libero di fare quello che vuole, a me non mi interessa più questi discorsi. Io mi sono ritirato dai discorsi e dai cazzi degli altri. Non me ne fotti più nulla. Sì, non li buttavi via i soldi, era una passione che hanno tutti, hanno speso tutti i soldi per le radio, vendute, ricomprate anche le stesse radio che hai vendute, insomma tutti questi sbagli li hanno fatti tutti, non è che è la passione che ti fa fare queste cose, vuoi cambiare, poi le rivedi, poi le ricompri perché ti piacciono, insomma, è un po', te lo ricordi, compro per lo scambio. Io insomma, compro quando scambio, io ultimamente quando ho traducato c'avevo una cartella, sono andato con calma a rivedermi tutti i pagamenti, tutti i bonifici, tutte le cose, e avevo superato in cazzate più di 3.000 euro, quindi ho detto basta, non ho avuto più soldi, perché poi vai a vendere, quanto hai speso? 200 per questa radio, la devi vendere 150, hai perso 50, quella quanto l'avevo pagata? Cazzo, 200 euro, e l'ho venduta a 150, altre 5 sono 100, alla fine su 3.000 euro che hai speso, cazzo, non hai guadagnato niente, ci hai rimesso 700-800 euro, quindi non ne vale la pena, capite? Non ho di collezione più nulla, io sto bene così, le radio ce le ho e ne ho anche in abbondanza, ma credi in abbondanza, eh? Ho completato la linea 140 con la T250 che era sempre il mio sogno, non lo trovavo, me l'ha trovato un amico, comprato, via, e quindi cioè, sto facendo le cose fatte bene, no, non ti rampo di nai baracchini già, poi ripeto, ognuno è libero di fare quello che vuole a casa sua. A me non me ne frutti più nulla. K venditelo lui quella radio, è bellina. Quella ce l'ha per volta, te la prende subito. Quella ce l'ha a volta. Ce l'ha? Allora, ne ha tre serie di quella, 15 canali. Hai visto lui? Cioè 15 canali, il 23 canali e il 40 canali di quella serie. Quello è 11, l'11 canali è quello che c'ha lui. No, figurati, c'è anche quello, non lo so. Io so che ne avevo uno 15 canali, perché poi c'è 3 canali alfa, mi pare, non lo so. Poi c'è 23 canali e 40 canali con la sedia. Ma io proprio non li conoscevo, non li avevo mai visti. E vabbè, a volte mi ha di dirsi che sono particolari, sono belli. Però come la serie dei Ruiz e dei Dac, non viene. Il Ruiz è mitico, quando è acceso poi, vero? Ah, bellissimo, è la verità, è veramente una bella radio, poi per l'età che hai, no? Che è anche troppo nuovo. Il mio è perfetto, praticamente questo era un collezionista, li teneva in vetrina, e ne aveva altri da vendere, capito? Il DAC l'aveva dato, se no gli avrei comprato quello. Il DAC non è buccia di gioca, dice qualcuno, io non lo do, ma anche se me lo pagano presso loro. Ho avuto offerte, però non lo do. Il mio mi è venuto in euro, 600 euro, compreso lo sdoganamento, e in dollari mi pare 470-450 dollari, quindi assolutamente. Mi hanno offerto 300 euro, chi 250, chi 350, ma no, manco glielo faccio, manco la foto le mando io per quella cifra. Bravo, bravo. Allora, benvenuti. Ehi, chiudo la corte che ti ho fatto io mi sono stufato di farti la corte. No Gianni, ma questo è in fare la corte, no? Quella radio non esce da qua, meno di 600 euro, capito? Cioè non ce n'è corte da fare. Quella radio io la vendo a 600 euro, quando viene qualcuno qua con 600 euro, allora si porta via la radio, se no inutile mi facciano offerte del cazzo. 180 euro, per 20 euro, grazie. Vanni, a te anche 5,50, non c'è problema, lo sai, con te non ho problemi. Vabbè, io sto usando, non lo senti? Sì. No, vai, va per migliaia, mi ha rinviato. No, io ho problemi. Non la vera. Capito, sì, se sei sentito niente. Non la vera. Io non l'avevo mai sentito, però. Vabbè, Vanni, tu c'è la passione di radio amatoriale, per dire radio amatoriale, c'è chi c'è la passione della 27 e quello per la 27 il top. Non vi ne assi, chi ha giù non vi ne assi. Mi piaceva anche quello che ci aveva Mario Masser, come si chiamava quell'apparecchio lì. Mi piaceva molto anche quello. Boh, non lo so, questo non ha un graffio, so se di non ha un graffio, è lucido come il primo giorno che l'ho ritirato, anche perché era sempre coperto, non ha mai preso colpi, nulla, nessuna riparazione, valvole nuove, tutta la strumentazione regolare, tutta bella illuminata, le sue lampadine originali, i suoi pomelloni originali, i suoi interruttori originali, questo è tutto originale, il microfono originale, che non ce l'ha forse una con Walter, DAC. Capito? Questo è un DAC Mark 10 SSB, capito? Perché poi c'è il Mark 8, c'è il Mark 9, questo è un Mark 10, ok? Questo è un Mark 10, è 40 canali normali, 40 canali sotto e 40 canali sopra, ok? Con AM, SSB, USB, tutto. La bella ragione a te, che ci saluto le Ciao Vanni, ciao! Ciao Vanni, tranquillo, tranquillo, già sta funzionando tutto qua. Non problema, no, no, sto usando il 430 con, infatti ho fatto la regolazione poco fa perché addirittura era troppo alta, quindi già andava, andava. Avanti Luca, riprendi. Avanti, chi è? Chi è che chiama? Avanti. Ciao Giovanni, ben sentito. C'è anche Claudio, avanti Claudio. Ci non parla Giovanni, vieni avanti Giovanni. Non intendo più io. Ciao va. Ma nel numero si rende già. Io ero già a Giovanni lo 5 e tu mi rispondi lo 10. Boh. Ah, allora che mi sembrava Giovanni. Allora pure tu vai studia. No, perché se siccome le stavo dando dei controlli sul 5, capito? E gli ho chiamato Giovanni e tu mi hai riposo avanti Giovanni. No, perché lui arriva passo passo, capito? Quindi solitamente lo sento io e anche Claudio qualche volta, lo sente, ma di solito lo sento sempre io, molta gente non lo sente. Oggi arriva qua 3, 4, a volte anche 5, però dipende in che posizione si mette, capito? E io sentivo chi sei, dicevo chi sei, e io sentivo Giovanni, Giovanni, io ciao Giovanni, invece tu che chiamavi a lui. Regolata bene adesso la radio, va bene, la mia? Ehi, va bene, KK. E comunque Luca, anche tu dai studi, sei sul 5, sul 10, ci sono già 5 canali. Se ti sentivo, capito? Io praticamente sentivo, io dicevo chi sei e tu chiamavi Giovanni, io pensavo che lui stesse rispondendo a me, capito? Non so se è passato qua. Però è galissimo, mi sentivo bene. Questo chi è? Uno spagnolo? Ora? E lo sento anch'io. Ma Giovanni la stazione gli ha messo a posto lui. Sì, ma c'è un sacco di problemi, adesso monteremo l'antenna e ci ha capito, c'è un bel un capannone che lo copre anche, gasotto, dobbiamo tirare su un'antenna più alta possibile, sennò è un macello. Sì, ma adesso io ho notato che arriva più forte, stasera arrivava più forte del solito. Ma gli ho messo un dipolo già, capito? Gli ho messo un dipolo, sicché è orizzontale anche, non è neanche verticale, così che stamattina gli ho messo un dipolo. Però, ripeto, c'ha un capannone che lo copre, di brutto. Ma chi? Giovanni Bratamona. Ma sei andato a Bratamona? Sì, stamattina sono sceso e gli ho messo un dipolo perché stavo usando delle antenne di macchina, ma è già coperto parecchio, poi c'aveva un bel di stazionari, ma un bel me, senza controllare, capito? Cazzo, ne aveva 8 di stazionari, cioè tutta roba che non andava bene, purtroppo ha danneggiato dei baracchini, capito? Ma cazzo, tu non intendi che durante andare in macchina, ma non avevi mancato la briga. Adesso se no appena abboniamo una verticale alta, vero? Ah, c'è un bel. Sicuro. C'è una portante, non so se è lui, il 910, non lo so però se è lui, non so. Beh, sante rosette la portante. Sicuro. Aspetta, mi almeno vi dai finizione della scusione l'isola della Sardegna davanti. E mostra la propagazione, c'è. Cioè, e forse il tempo mi anche, che lo sta. Che sta favorendo. No, non lo saccio. Adesso cambio radio, vado con l'altro 430 che ho messo un'altra Messi 60. Stamattina ho comprato un'altra Messi 60. Così regoliamo la radio perché sicuramente è troppo alta. Aspetta che cambia. Attenzione, canale 10. Che è rimasto avanti. Luca, tu non hai altro costruire un'antenna, Giovanni. Te la fai tu una. È già tutto ordinato, capito? Perché ci voleva il cavo anche, eccetera. Adesso mettiamo una verticale, no, una verticale classica in alluminio. Guarda, spende di meno che fargliela io, perché non perché io voglio quella cifra, ma purtroppo ci vuole, scherzo, io a meno non ne posso fare, scherzo di tubiglia di Ica, la Venom, che costa così e va bene lo stesso. Ah, la Venom gli ha fatto prendere la 58. E allora, così non c'hai i libri, capito? E niente, adesso vabbè, tra arrivare tutto lo sai, no? Se ne va da fra una ghetta e mezzo, il cavo l'ho preso direttamente dove lo compro io, così che se ne parlerà così. Quanto l'hai pagata? 50 euro? No, 64. Vanno bene quelle antenne, c'è la Franco California, arriva a tutte le parti bene. Poi per il prezzo comunque già è una buona antenna, comunque sia. Poi bisogna vedere al vento, quello non lo so. No, va bene, anche col vento non preoccuparti, perché è un'antenna molto rigida, non è, c'è i radiali che soffettari, non so di quelli morbidi. Allora, vediamo un attimo, com'è la radio qua col 60, questa è un'altra radio, troppo alta? No, va bene anche questa. Uguale all'altra, Lu? No, l'altra era più gracchiante, più forte l'altra era. Ehi, è vero, l'altra è leggermente più forte. Sì, ma va benissimo anche questo. Non fa parlare, no? Perché la aumentiamo subito, vediamo un pochino. Ecco qua, così troppo forte. Si sente tutto il QRA. Ehi, si sente tutto. Vabbè, propagazione un bel o la intendo solo io? No, c'è uno sotto, uno spagnolo sotto, Luca. Niente, e su Maria, se ti arrivi, minchia. Attento mio hermano della scusione a Sardegna delante. Comunque la statistica hanno messo al primo posto la Grazioli, occhio. Al secondo posto la Mantova. Cosa vero hermano se mi scusi? Cos'è? Già ti scucciamo, scucciscua, esita. Hanno fatto la statistica, al primo posto hanno messo la Grazioli, al secondo posto la Mantova. Al terzo posto non so se la Game Master, non so. Aveva perso la gaggata, che se va a posto la classifica, vai. Io faccio fatti, non parole. Non lo so, sono prove fatte con stesso palo, stesso tutto uguale, capito? Non come fanno molti che mi fanno ridere, che per provare le antenne dice questa esce meglio di quella, cazzo, è un'antenna in un palo, l'altra nell'altro, l'altro, cioè non puoi, non so prove di vaghissimi, non puoi dire questa è più forte di quella soltanto così, l'antenna può pulsare, ma te si va con lo stesso cavo di scesa, se si va è tutto canto. Luca, io non sono un piscuano e non ho niente da farmi insegnare da nessuno. Io ho fatto la prova con lo stesso cavo, la stessa radio, la stessa altezza, lo stesso tutto tra la Mantova e la Smartech e ne prende 5 segnali, sai cosa vuol dire 5, per ricezione e trasmissione. lasciamo quelle. Chi mi ha venduto la Smartech? Hanno fatto le prove tecniche con strumentazione alla mano di laboratorio, ok? Di laboratorio. E la Smartech se la mangia tutte, anche la Grattiori, ma non se la mangia, non se la ingoia così. Lì bisogna fare, ripeto, sicché non lo so, così hanno fatto, addirittura secondo posto la Mantova, primo posto la Grazioli. Ma chi ha fatto queste statistiche? Gente competente o ci fai tu? Ma come cazzo fanno a fare statistiche? A fare statistiche di che genere? Stai parlando di tre antenne, 5 ottavi contro l'antenna 7 ottavi, di 8.050. Che statistiche devi fare, Luca? Sono dei cipito, è gente che legge i giornalini, capito? Le prove si fanno alla mano, si fanno un'antenna messa qui e l'altra a fianco, stesso cavo, senza nessun commutatore, senza nessuna pinta, stacchi il cavo dalla radio e l'attacchi nella stessa radio cambiando l'antenna. Queste sono le prove che si fanno, quindi leggono molti giornalini, perché è possibile che un'antenna 7 ottavi sia inferiore a un'antenna di plastica, come di plastica, capito? La Game Master è la truffa più grande che esiste nella vendita delle antenne, ok? Lascia perdere la Grazioli che non sia antenna, la Mantova non sia antenna, ma che mi mettano la Game Master a competere con una Smartech, con una Mantova o con una Grazioli è veramente vergognoso, perché è un'antenna del cazzo. Non so cosa dirti. Non so cosa dirti, c'era qualche video anche, Francesco le ha fatte le prove e la reputa una persona competente, tra l'altro, molto molto competente, non ne dice di balle, capito? Poi ognuno giustamente la pensa come vuole. No, vabbè, chiudiamo il discorso, diciamo, sai che poi io divento Mr. Hyde, mi dispiace. Sono prove che Francesco ha fatto, Francesco è uno che costruisce antenne retroresina, costruisce antenne per non dire stronzate, qui stiamo parlando di aziende, capito? La Smartech è una delle aziende a livello mondiale che costruisce non solo antenne, ma televisori, tutta roba elettronica, e ha fatto delle prove tecniche, statistiche, di aggiornamenti e di cose dove è risultata la numero uno delle antenne, ma non perché ce l'ho io, a me non me ne ha fatto nulla, capito? Perché se in Sardegna ne sono state vendute, siamo arrivati Gianni che mi hanno aggiornato oggi a 80 in Sardegna, capito? Nel nord Sardegna, centro Sardegna, sud Sardegna, già 80 ne sono state vendute, quindi 30 in più di quello che ti ho detto ieri, 80, capito? Non 80, 80 di antenne fatte da Francesco, 80 Smartech, ok? Quindi lascia perdere, è un'antenna eccezionale, è una 7 ottavi, non ha niente a che fare con quelle cagate che fa Francesco, competente quanto sia, per me sono antenne che riesce a fare Luca Flipper, che riesce a fare Gianni Occhiorum, che riesce a fare Claudio Sparviero, che riesce a fare Giovannino Fiori, capito? Ma quando parliamo di costruzione di antenna, come quella che ho io, che c'ha Carlo, e che si chiama Smartech J-Pole, stiamo parlando di un'antenna, non stiamo parlando di antenne, cazzo, a canna alla pesca, andare cazzo al porto a prendere i Sharagi e i pagelli, stiamo parlando di antenne, capito? Magari ha fatto la statistica sulle 5 ottavi, non ha calcolato le 7 ottavi, ha fatto la statistica su antenne 5 ottavi probabilmente. Francesco, il tuo chiamare Champy, perché lui fa antenne, canna alla pesca, capito? Compra le canne a pesca, ne toglie il mulinello e fa la canna a pesca da professionista, per carità, non è amico mio, non lo conosco, non l'ho mai valutato, non lo sto sottovalutando, ma non dica stronzate, non dica stronzate, capito? Io ascolto le statistiche di aziende serie, di aziende a livello internazionale che hanno venduto migliaia e migliaia e migliaia di antenne, migliaia di componenti elettronici e continuano a vendere perché sono antenne serie. La Smartech in questo momento è in competizione solo con la Grazioli, ma ci sono delle cosettine di differenza che tra 7 ottavi e 7 ottavi, perché la Grazioli sta facendo una 7 ottavi e stanno facendo la comparazione. Tutte le altre antenne sono noia, come la canzone di Califano e di Champy, capito? Devi andare a Francesco al porto a pescare pagelli, sharagi e aragoste, se ce l'ha fatto le antenne che fa lui, ma le facciamo a vedere. Io te devo dire, io la reputo una persona competente, anche perché non sa solo di, a parte che è un radioamatore, non sa solo di antenne, sa anche di elettronica, sa mettere in mano a delle radio che comunque bisogna esserne competenti, sa, non so se tu lo segui, ma a come parli mi sembra che non lo conosci proprio per niente. Se non lo seguivi su Facebook, sui video che mette, su quello che costruisce, su quello che aggiusta, su quello che modifica, non avresti parlato così. Si vede che non lo segui, capito? E la prova l'hanno fatta, capito? Io tempo fa glielo chiesi e mi ha detto questa statistica qua, poi ognuno giusto libero di credere quello che vuole. Ma chi è Francesco? Quello che ha detto così? Adesso vediamo, quello lì è. Francesco Radio Killer. Ah, io Luca, dai, chiediamo discorso. Francesco Radio Killer, io lo conosco, quanto lo conosci tu? Ok, su Facebook ho sempre seguito le modifiche che fa nelle radio, le modifiche che fa. Sto parlando di un hobbista che si diletta a fare queste cose, non è un professionista, non ha azienda, non ha niente, capito? E poi niente da dire, ma non mi parlare a me di statistiche a livello internazionale fatte da aziende a livello mondiale, dove appunto la Fiori e la Smartec sono in questo momento le antenne migliori in assoluto per la 27, e non solo, stai attento, e non solo, perché copre praticamente una larghezza di banda molto molto vasta, e l'ho provata io con le mie mani da radioamatore, dove trasmetto in 10 metri senza accordatore e niente, come che sto usando una verticale multibanda, e non solo. Per chiedere a Gianfranco se ascolti che sia SWPL, ne abbiamo parlato anche in frequenza amatoriale, non solo, ma l'ho provata anche in 40 metri, l'ho provata in 20 metri, l'ho provata in 15 metri, e sempre senza accordatore. Stiamo parlando di un'antenna seria, funzionante a statistiche a livello mondiale, non stiamo parlando di canne da pesca che vende il gatto povero forbice e che le manda Francesco per modificarle, cazzo, a fare che cosa? Aiuto, battato, siamo vedendo il battato. Avanti, chi è? Buonasera. Sì, stai uscendo Giovanni, sei più forte del sud. Non sei molto forte, però un po' più forte di prima, già sì, dai. Adesso quando ti metterai l'antenna vedrai che cambierà la situazione. C'è un'antenna buona quella che hai preso, anche se non costa molto, va molto bene, dai. È un'antenna che, diciamo, qualità prezzo è un'ottima antenna. Io la mia l'ho pagata 150 euro, lei costava 180, aveva fatto lo sconto, ma costava 180 euro la mia. Cappa, quanto stavo dicendo? Sì, va benissimo per fare 4 chiacchiere in città e cose, ma anche fuori, io ce l'ho a Franco California, ma non so se la zona tua sia favorevole, però dalla zona sua parla anche con l'estero, con la Italia, eccetera. Vabbè, te lo prendi un baracchino bello, dai. Lascia tutto com'è, dai, avanti Luca, avanti Claudio, ma tutti i musici devono sufficienti. Luca, nemmeno io sento nessuno, ma mi senti Giovanni? Perché voi non risponde nessuno, possiamo stessi uscendo. A Luca, non lo senti? Non è possibile, è più vicino a te lui che di me. Luca, ci sei, flipper. Gianni, mi senti? Questo è Lafayette. Dice che non ti sente, come si chiama? Giovanni. Beh, peggio di che non lo so. Magari è come posizionato di polo, dove ti già. È molto strana la cosa, molto molto strana. E appunto sei più vicino tu a lui che io. Io sono più lontano di te, tu sei già, diciamo, non a metà strada, però più avanti. Giovanni, lo senti adesso a Luca? L'hai sentita Giovanni? Io già lo sento a Guglia. Qualcosa più forte almeno sta uscendo, cazzo, con quelle, cioè, già, se tu vedi dove, come è posizionato, ti metti le mani in testa, capito? Finché non arriva tutto quanto, no, non si può pretendere d'altronde. Ma cos'è? Non fosse? E allora? E non posso, poi c'è un capannone alto davanti, E dove c'è la vecchia Valimuggia? E lì di fronte. Cappagappa. Ho capito, lì c'era la campagna anche lo zio. Tuo zio? Io. È una bella zona anche quella, caspita. Bellissima zona, tranquilla tra l'altro. E lui c'aveva questi cacchi che erano la fine del mondo, cazzo. Piccoli ma dolci, buonissimi qua. Facevo certe scorpacciate, poi l'ha venduta. Quelli piccoli son buoni lo stesso, sono più dolci mi sa di quelli grandi. Erano buonissimi, dolcissimi, proprio buoni. Forse questo amico io lo conosce. Lì c'è già un po' di anni, mi ha detto. E dai, è Claudio che stavo cambiando baracchino. Cavagava. Scusa, già stavo parlando con Gianfranco, aspetta che devo però regolare questo radio perché... c'era troppo alta ipotesi. Io ho detto, io non so Vicente, chiamava te, non rispondi, chiamava Luca, non rispondeva, ho detto, che strano, qua mi segna che sto uscendo. Oh, io, vabbè, là. Adesso... sta andando anche nelle altre frequenze, quindi si è più occupato. No, assolutamente, mi ha risposto Gianfranco in VHF e quindi stavo ascoltando a te con Giovanni e in più ho risposto anche a lui, capito? No, non c'è nessun problema, figurati. È tutto sotto controllo, cappa di Roggero. Io ho provato a mettermi il ricevitore, ma se ascolto la radio non ascolto il ricevitore e viceversa, no? Non mi va bene, non mi va bene, se ascolto uno non ascolto l'altro, se no non comprendo né uno né l'altro. Già, vabbè, questione di abitudine, io ho adesso questo 430, ce l'ho qua nel canale 10, c'ho il 140 nel canale 20, ho l'altro 430 ce l'ho nel canale 23, poi c'ho le V accese, c'ho il Galaxy acceso sul canale 40, cioè c'ho tutto acceso io, e dove parlano io sento, cosa è questione di abitudine, capito? Ah beh, certo. E poi c'è una cosa che, per dire, quando premi la portante per parlare con te, magari parlano anche in altre frequenze e si sente l'altra frequenza traslata e non va bene. Là. No, io quando parlano abbasso. Sto abbassando anche la potenza, ok. No, io abbasso già, non sono di quelli che si mette a traslare a fare, capite? Va bene così. Cappagappa. Vabbè. Lui, dai, bisogna andare a fargli un bel lavoretto. Li vediamo un po' di apparecchi a Giovanni. No, c'è apparecchi a vendere. Io ho trovato baracchini, non ne ho più. C'ho ce li ho. C'ho tre baracchini veicolari nell'altro armadio. C'ho il coso, l'Urano, se c'ho l'Inte, che è quello che tu, l'Elbex, è quello che tu ben conosci, ce ne ho altre due, ma sono dentro l'armadio, no? Non li vendo perché sono delle code, delle cose, quindi l'Urano è quello che ci aveva un braccio di ferro, quindi quello di Sosso che è morto, ho comprato tutta l'attrezzatura sua, l'aveva fatto avere fatto lui Luca, che è il cognato. Ah, ecco. Già no, ma io stavo dicendo a Giovanni, devi vendergli qualche apparecchio, magari. Io mi busco un 140, mi vendo lui, se mi busco un 140 o un 430. 140 o 430 li prendo, non pigliare 440 perché poi diventa un problema, diventa un problema. Io a qualcuno gli ho fatto cambiare idea, era veramente... orgoglioso e soprattutto contentissimo dell'operazione che gli ho fatto qua, perché 440 sta creando problemi un sacco di gente. Claudio, ti sei abbassato di radio di colpo. Aspetta. specialmente visto per gli offroni. Ora, sto uscendo adesso. Adesso sì. Come devi uscire? Eia. Ma lì nel PTT ci sarà da mettere, te l'ho detto. Tu non mi dai retta, poi che poco di CRC, tu vedi che funziona bene a buio. Ma un goccio, non ti stai cercando di allagare. È strano, perché questo non deve funzionare così. È indietro, in posizione in. Ed andare a posizione out. Ora. Sì, adesso sta pompando di più. Eia. Perché deve andare così. Cappa, sì, va bene adesso. Ma quello lì, il microfono che ti stava aggiustando, è quello che non andava? No, questo l'ho comprato stamattina. Però era fermo un sacco di tempo, se lo apro pulisco bene tutto e però appena di spray. Ehi, a mettere l'aria prima, se no si impasta. Un po' d'aria e dopo lo spray. Ehi, kappa. Venga, vediamo. Ah, mi si è attaccata anche la ventola di questo 430, andava bene allora. Cagare. E stai arrivando una bomba, cazzo. Una bomba, sì. Io quanto sto arrivando il segnale? 9.30, 9.25. No, con questa, sì, oltre 9.30. Oltre 9.30, questa è tarata, Questa già lo sai. Questa l'ha fatta Fabri a strumentazione, per lo smettere giusto, sì. 9.30 con picchi positivi a 35. Già va bene, là. Ovvio, vabbè, sto usando il serpente, non si scherza, ottima. Ah, anche l'antenna mi sta dando delle buone soddisfazioni, ho dei buoni segnali. Stai scherzando? Lo dico oggi che lo vedendo. Torniamo al discorso di poco fa. Io non le antenne serie, quella è una mantova, meno è che io la mantova ce l'ho. C'ho la mantova sul 140, sulla linea 140 e poi la Smart Tech che commuto sugli altri 2430, c'ho anche il 757 GX2 Cat System che è sempre sul lardo. Io le faccio girare le antenne, però quando parliamo di antenne noi possiamo parlare di camera pesca. Camera pesca è un'antenna autocostruita che fa il suo lavoro, ma non ha niente a che fare con un'antenna da 8,50 m, 7 ottavi e garantita, 2 anni garanzia, ci arriva se non va bene. Che è per esempio più lunga questa antenna? 8,50 m è lo stilo centrale, anzi è 8,35 m. Sì, cala, ho leggete le caratteristiche. E lui ce devo garare, lui devo garare lui. 8,35 m la mia, misurata a terra, 8,35 m. Se no io la stacco, la metto in terra, perché tu sei, tra l'altro, di quei pochi che non hai fiducia sempre in quello che ti dicono, ok? Quindi io la stacco, la metto in terra e con il decametro tra misura ti faccio la foto. La mia è 8,35 m l'antenna centrale, lo stilo che è a fianco è 2,18 m, tirato tutto su quasi. Più lungo di un attimo 2001. Eh sì, poi se qualcuno lo lascia piazzare, perché ci sono delle referenze da rispettare e perde da una parte, dall'altra e qui e là e poi si trova con l'antenna a 8 metri o a 7 metri e 90 come è successo già a qualcuno della provincia di Nuoro che mi ha chiamato e dice che era pieno di stazionarie. Ho detto quanto è l'antenna, lo stilo centrale? Lo stilo centrale te lo dico subito, misura 7 metri e 80, allora hai sbagliato fuori, usa i fori obbligati, non usare fasce, usa i fori obbligati che ti ha la casa e metti le viti quando passi davanti allo stilo, metti la vitina autofilettante, poi fascetti e misuri, viti autofilettante, fascetti e misuri, deve essere 8 metri e 35 centimetri, non devi perdere niente, perché la casa la va per 8 metri, ma c'è scritto anche in altri, non in questi siti del cazzo che guardate bene nei siti della Smart Tech cosa dice. Cazzo, ma non prendi cura, gatto le vicine di asilo, vabbè, non voglio far vedere questa cosa. Comunque la mia è 8,35 m montata, il centrale, ok? 8 metri e 35 centimetri, mentre lo stilo del che c'è a fianco della Gepol è 2 metri e 18, quasi 2 metri e 20. È la mia, buonasera. Oi, ciao Carlo, buonasera. Dire a Carlo che arrivi un pisantenna, che arrivi con la trantenna al ghero, vedi? O quanto, cosa riceve di segnale, vedi, se vuole alla Gemmate. Ciao Carlo, buonasera. Ciao Gianni, ben sentito, buonasera anche a te. Non so che ci sia, forse Luca o Giovanni, forse ho sentito prima. Sì, ci sono Luca e Giovanni e Claudio e io, boh, basta. E poi si è arrivato tutto. Avanti per chi vuoi, KK. Allora, complimenti Cla per quella roba che ho visto in foto. È un bel insomma, con quello sei al top, perché io ce l'ho uguale della Samsung 55 pollici ed è perfetto. Minchia, di notte stavamo guardando con mia figlia Rai Play, ma uno spettacolo, e tira tutto in automatico, non è che devi connetterti a niente, è direttamente la TV che ha tutto l'installamento. Poi sono andato col mouse del telecomando, no, perché c'è il mouse, il telecomando, ho messo su Google, cioè normale, come che sia un telefono Android, uguale, preciso identico. Sì, lo conosco, già è bello, poi è bello grande, 55 pollici secondo me è l'ideale da vedere. Sto aspettando la Champions o la Coppa Italia, qualche partita che danno al 5 o alla Rai per vedere, ma ho visto la partita femminile della Juventus ieri, Madonna Santa, hanno per terra, c'era una ragazza che si era caduta, insomma sono entrati, medico, eccetera, cazzo, li hanno, nelle gambe, ragazzi, in trasparenza, perché è un 4K, in trasparenza, si vedeva qualche pelino nelle gambe di quelli biondi, tu immaginati cosa si vede in quella TV. Sì, già l'ho potuto vedere anch'io questo effetto, si vedono anche i ciuffi d'erba del tratto quando giocano a pallone, che magari inquadrano la palla, no? Vedi proprio distintamente tutti i ciuffi, è uno spettacolo il 4K. Bello, veramente bello, poi sono rimasto entusiasta perché è un regalo, quindi insomma va bene. Vai, doppio, vai. Ehi, adesso c'è il cinema in casa. Ma cosa l'hai appeso qua? No, non ho fatto lo spostamento, perché appeso devi sempre guardarlo con un pochino il collo sollevato, non lo puoi mettere all'altezza, molto molto basso. Quindi ho cambiato lo spostamento, perché ho fatto, cioè la base era spostata da una parte, con la lampada al centro eccetera, quindi ho messo la base libera dove lui prende quasi tutta la base, e invece quello che era incassato l'altro l'ho spostato dall'altra parte e ho rimesso la mensola, quindi è rimasto una libreria, diciamo, perché l'altro vicino era incassato dentro la libreria, capito? Avevo tolto il piano, i libri erano incassati lì, ma era un 48, questo è un 55, è enorme, già enorme, veramente molto molto bello. Me lo posso immaginare, 55 è grande. Vabbè, io non ce l'ho così grande, però fa tutto, il mio è 3D, c'ha internet, è uno smart TV col 3D pure. Sì, lo conosco. Questo è un Android, praticamente un telefono già, è un telefono col a livello gigante, poi se c'era anche Carlo che lo conosce sicuramente meglio di me. Ma io mi sto divertendo tantissimo, veramente eccezionale. Carlo, la modulazione com'è lì da te? È regolata bene? La tua sì, qua mi arrivi benissimo, sia di radio, vabbè, di segnale è in discussione, ma va bene qua, chiara, bella, vabbè che siamo anche abbastanza vicini, in linea d'aria. No, perché sto usando l'altro 430 che uso poco. Oggi ho acquistato un altro MC60, perché lì c'era il 50, l'ho tolto, ho comprato un altro MC60 stamattina e gliel'ho collegato, però sai, tra il 50 e il 60 c'era un po' di differenza, quindi ho regolato leggermente il mic gain. Se mi dice che va bene, lo lascio stare così. Carlo, io con questo non mi arrivo di segnale. Rosa Gian? No, a Carlo sto dicendo, come gli arrivo di segnale con questo apparato? Già, guarda, qua a fondo scala, radio 5, buona. Kappa, dai. Anche la tua radio è bella, anche se è normale, mi piace come radio. E va bene, infatti stavo pensando di fare, di collegare un altro microfono da tavolo, però ancora mi è arrivato lo spinotto ma non l'ho provato, devo fare i collegamenti, saldarli bene e poi lo proverò, vediamo come esco con un altro microfono preamplificato, capito? E che tipo di microfono hai da tavolo? Adatto Eugenio, è nuovo, praticamente lui non lo usava, l'MB+4. Ah sì, lo conosco. Già sono discreti quei microfoni, per qualità prezzo sono buoni, sono abbastanza buoni. Luca, ci sei? Luca non risponde. Giovanni, scappa. Ma cosa ci ha messo l'eco in quel microfono? Vedi dove ci ha orientato il dipolo, dove è piazzato il dipolo? Verso che zona è piazzato già? L'aveva messo verso Sassari, penso, no? Giovanni, verso Sassari il dipolo è puntato. Positivo, ha detto, verso Sassari. A me arriva con Santiago di 6 e mezzo, là. E secondo te si è puntato verso Sassari, te la 6 e mezzo. Si è puntato verso Sassari, da lì lui deve andare a e al contrario. Io da qua nella zona sua sono a nord-est e lui deve andare al contrario, quindi secondo me è sbagliato, perché a me, io non lo sento per niente, nel modo più assoluto, non arriva per niente, forse arriva da Carlo che è più avanti di me, ma qua non riesce a passare, mentre prima lo sentivo a Santiago 5, lui. Ma il mio Switter già lo sai che è avaro questo qua. Carlo, tu lo senti a Giovanni? Sì che lo sento, Santiago 6, però la radio è molto bassa, ma è il dipolo come ce l'ha, orizzontale o verticale? No, ce l'ha orizzontale. E allora sicuramente le nostre sono tutte verticali, anche per quello magari, perché lo stesso problema ce l'avevo io prima, col dipolo montato in orizzontale non arrivavo a Porto Torres eccetera, poi l'avevo girato e andava bene. È una direttiva il dipolo, c'è poco da fare, dove lo punti va, non è che è omnidirezionale, fa una zona e buca. Sì, ma non hai capito già cosa ti ha toccato, se noi siamo a polarizzazione verticale, lui è a polarizzazione orizzontale, perde il 50% del segnale, se no il 70%, se invece quel dipolo lo mette a polarizzazione verticale, allora arriva molto molto meglio. Sì, ho capito, sì. Vabbè. Adesso si è ordinato l'antenna, come gli arriva, Luca ha detto che gliela piazza, gli mette un palo alto e speriamo che vada bene, dai, si è preso la Venom. Ah, come quella che c'ha Franco Califfo, funziona bene con l'antenna, va bene. Sì, a quel prezzo che c'ha, non c'è 56 euro mi pare, là. Quella lì si potrebbe prendere e tenere di riserva, di modo che se c'è qualche antenna che va male, gli metti quella e sei a posto. Sì, no, io ho altre due antenne di riserva, ma no, non me ne servono, le antenne sono nuove. Adesso sto aspettando e Claudio mi dia notizie di questa reazione, vediamo, molto probabilmente prenderò anche quella, così le metto tutte e tre vicine e poi lo faccio io il video come Dio comanda, lo metto su YouTube a vedere se la gente è imbecille, esaurita o non capisce niente, ma di cosa stiamo parlando? Mettilo che lo guardiamo. E perché quello che ha messo il capo aria della Smart Tech, non glielo ho dato io il video, tra la Mantova c'è un video, non so se in quale sito sia, tra la Mantova e la Smart Tech, dove si vede proprio la differenza del ricevitore che con la Mantova è 9,5, con la Smart Tech è 9,10, proprio commutando la stessa radio, le due antenne con lo stesso cavo. Ma lasciamo perdere, vai caro. Io l'ho piazzata come me l'hai data tu praticamente, lo stilo quello più basso l'ho lasciato com'era ed il Ross si muove appena appena, quindi neanche meno di uno, è dappertutto e anche all'estremità della banda eccetera, e Ross è quasi zero. E anche la mia è così, eh. Scusa già, la tua antenna, quella che ti ho fatto prendere io, quella c'è un capretti qua, che hai visto che te l'ho già assemblata, è in stato solo le canne centrali, quella io l'ho tarata, montata e tarata come da manuale, come ho fatto la mia, attaccata, ti ho detto, la faccio vedere la prossima volta che vieni, io c'ho una piastra rotonda di ferro con un tubo saldato al centro da 80 cm, ho messo l'antenna dentro lì e l'ho assemblata la parte del J-Pole, è pronta a innestare le canne, tarata a terra a 80 cm dal giardino, ok, è come trovata con 1 e 1 di stazionari e tu l'hai montata a 30 metri di altezza, compreso il palazzo, 20 metri di altezza, quello che è, sempre a 1 e 1, quelle sono le vere antenne, quelle sono antenne che tu tari a terra, le piazzi ed è la taratura rimane quella, non la Mantova. La Mantova io ci ho messo una mattinata, alla fine mi sono rotto le palle e l'ho mollata perché ne avevo le scatole piene di stare sali e scendi. Allora ho chiamato un amico, lui su, io giù, e siamo riusciti a tararla, abbassa la molla, tira la molla, abbassa la molla, tira la molla, cazzo sembravo Daniel San, metti la cera, togli la cera, Maio. No, la mia c'ha un diverso metodo per tararla, lo sai, c'ha una specie di, ora ti posso dire, come una rondella però ripiena, che si muove avanti e indietro, sulla molla. Una volta che tu trovi la taratura giusta, stringi, le viti e si blocca così. No, questa c'ha uno stilo che è alto 2 metri e 50, non c'è 1 metro e 30, e va sino a tarare la taratura. Quando te la danno lo stilo è tutto abbassato, tu attacchi l'antenna, la installi, senza toccare con lo stilo, c'hai 5 stazionarie. Poi vai a regolare piano piano, però il bello, Gianni, è che la tua antenna, se la tari a terra, come l'ho tarata io, così messa a 80 cm per terra, e la tari per dire a 1 e 1, innanzitutto non riesci a tararla, sicuramente, va messa più in alto, capito? E poi la sposti e devi regolare di nuovo per l'altezza. Questa è fatta apposta, questa lavora da zero, e c'è scritto, Carlo te lo può dire, da zero sino a 30 metri di altezza, capito? Tu la puoi mettere, io la mia è a 2 metri dal piano del giardino, 2 metri, un tubo ci ha attaccato da 2 metri. Adesso quest'estate monterò gli altri elementi che sono 2, 4, 6 e la metto più in alto. Poi vedo già la differenza, sicuramente al 100%, però è un'antenna che si può tarare a terra, è fatta apposta, capito? Vabbè, io comunque la mia lo stesso è 1 e 1, e anche quando attacco rimane lo stesso, basta regolare il rosmetro e rimane lo stesso uguale, rimane 1 e 1, 1 e 2 al massimo sale, ma nemmeno 1 e 2, 1 e 1. Quindi l'antenna va benissimo, vabbè, ci mancherebbe altro, è nuova. Quando l'ho piazzata era 1,8, voleva tarata, era molle l'affare, scorreva da solo. Quindi una volta che è stata tarata ho detto bloccala così, abbiamo fatto tutto col telefonino, perché prima si faceva con la radio, ti ricordo, adesso c'è il telefonino, abbiamo usato il telefonino, vai avanti, vai indietro, eccetera, eccetera. Sì, beh, normale, le prove si fanno, le tarature bisogna fare tutto, no? Non è che io questo non ho avuto nessun problema, a Carlo quando è arrivata l'ho sballata, tutto, e gliel'ho data già pronta, e come vedi ti sta confermando che la taratura che ho fatto io, lui è stato la chiama, l'ha montata ed è rimasta la taratura.